Cari ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio Exalge, benvenuti e benvenute all'ascolto di Casa da Paes Radio Edit. Tutti venerdì sera dalle 19.30 alle 20.30 musica, soprattutto ascolto di quello che può rientrare nel grande mondo del jazz contemporaneo. Io sono Nina Terruzzi, mi potete raggiungere scrivendomi a casadapaes@gmail.com oppure sulla pagina Facebook e Instagram di Casa da Paes. Exalge invece esiste fisicamente a Milano, ma anche lei la si trova sui social, nel caso foste incuriositi. Iniziamo con la musica. Questo è un pezzo di un disco uscito a marzo del 2021, quindi fresco fresco, è di un trio francese che si chiama Four e che ho scoperto da poco. L'album si chiama Boîte Noire e il brano che ho scelto per iniziare è il primo del disco, Avant. Everything Tears è stata una droga. Quando è uscita, Braja Waldman, un sassofonista, e questo disco del 2017, Wisdomatic, inizia con questo pezzo che ha fatto innamorare me e non solo. Mentre torniamo ad ascoltare un artista che mi piace molto, di cui vi ho già parlato, è Ben Lamar Gay, e questa è Tears da Grapes del 2018. Mm-hmm. the one up high. Gone planet Earth, kiss the sun up high. Gone with the wind, don't give a damn if I offend the ones who don't like my side. Black baby born, we've been torn apart. Burnt alive, now we're reborn in art. Feel that shit, instrument play this hard. Something that you're born with, you can't bite this bark. Hammerhead, deep water, you can't tread. You instead dock up how I live. Rarely rest, brain while there's no rest. Speak my life, middle finger, all the rest. Jay don't guess, since travel on my quest. A million miles, but not a nevertheless. Stay in tune, must know my people's mood. Keep my shoes laced up and on the moonlight. Undercover, he's so cool and slick talker, speaking rude. Nah, if you know what hurts is true. So, listen, can you hit my clues, bro? So, brother, for the people to move by, yeah. Y'all want the murder, we just go on our way. Fist full of power, that's how we rule our way. All for the people, let's do it now today. Gotta make it alive, it's for another day. I keep it alive, I say that it never dies, no matter what you say. I'm living a life that really isn't alive for anybody else. I do it alone, forever stay on my zone, don't need nobody help. What about Uncle Archie? And then my uncle say, I Double Cut sono un quartetto italiano, Tino Tracanna, Massimiliano Milesi, Giulio Corini e Filippo Sala. Il loro secondo disco insieme si chiama Mappe e quello che abbiamo ascoltato dopo Bella Marghei è un brano di Massimiliano Milesi che si intitola Love and Love Again. E poi Tulips, Damo the Fudge Monk, Archie Shep e Raw Poetic, un lavoro divertente, fresco e allo stesso tempo super intenso dell'anno scorso. Ma se stiamo parlando di intensità, allora vi invito ad ascoltare il prossimo brano, anche questo uscito da poco, Pharoah Sanders, Floating Points e la London Symphony Orchestra, Promises, Movimento 6. Thank you. Questo disco è una droga, va ascoltato dall'inizio alla fine, sono 46 minuti di fluttuazione. Io l'ho comprato da poco e non riesco a staccarmene. Mentre un altro disco bellissimo, e anche questo già del 2021, quindi molto recente, è quello del batterista napoletano Stefano Costanzo, Scandala, da cui ascoltiamo il brano d'apertura. Thank you.

Decisamente di diverso tipo è Malika, un pezzo degli Hiatus Coyote, che è un gruppo australiano che mi piace un sacco, che appunto forse un po' porta un po' agli estremi la concezione del jazz contemporaneo, ma le etichette in tutti i sensi sono ormai qualcosa di cui ci stiamo sempre più abituando a fare a meno, e quindi eccoli anche loro a Casa da Paese Radio Edit. E subito dopo invece un brano decisamente jazz, Brian Blade, The Fellowship Band, Season of Changes è il disco, e questa era la bellissima Stonehill Hill. Mi ricordo la prima volta che l'ho ascoltata, ho poi camminato per Milano per tipo 2 ore ascoltando solo lei. Sono stata capace di questo e di peggio nella vita. È quasi finita anche questa puntata di Casa da Paese Radio Edit. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento venerdì prossimo 19:20 su Radio Exalge. Vi lascio con Michele Rabbia, Gianluca Petrella e Avi Darset. Questo è il loro Lost River Fluvius, è il nome del pezzo, un disco uscito per ECM un paio d'anni fa, molto interessante, molto bello. E una buona serata a tutti, a tutti, a presto.